Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Benvenuti e benvenute a Mebius, ciao Chiara. Ciao Federico, benvenuti. Allora, di che cosa parliamo oggi? I manager che hanno subito dei terremoti sono più bravi. Adesso vi sembrerà una roba ermetica, questo ma è l'Ig Nobel, ve la spieghiamo. Lo sappiamo. Poi raggiungeremo il professor Ceccarelli, che è uno scienziato che è stato premiato negli scorsi giorni a Expo perché fa un'attività molto importante di genetica nelle aree disagiate del mondo. E infine il tessile tecnico italiano, un settore molto importante, e vi raccontiamo un po' di cose. Si parte? Via! L'avevamo promesso nella scorsa puntata che l'italiano vincitore degli Ig Nobel l'avremmo intervistato. Come ogni anno cerchiamo in qualche modo di raggiungerlo, poi subito dopo ovviamente la celebrazione che va avanti per giorni e giorni. L'abbiamo raggiunto, ecco, anche se non vive più in Italia. Intanto benvenuto Gennaro Bernile, complimenti per questo Ig Nobel. Grazie mille per l'opportunità. Ecco, allora, intanto lo ricordiamo, insomma, per chi non avesse seguito la puntata della scorsa settimana, la motivazione per la quale lei è stato insignito di questo prestigioso premio, non da solo ovviamente, con un team di ricercatori internazionali, era l'Ig Nobel per il management ed è stato assegnato alla ricerca che avete svolto, insomma, perché avrebbe dimostrato, e adesso le chiederemo insomma di raccontarcela, come i manager di successo, ovvero gli imprenditori che più amano rischiare, siano stati coinvolti in gioventù in catastrofi o disastri naturali, come ad esempio i terremoti, le eruzioni vulcaniche, gli incendi. Insomma, Bernile, ci racconti un pochino che tipo di ricerca avete svolto. Ci siamo dimenticati di dire che lei è docente di finanza alla Singapore Management University e quindi lasciamo a lei la parola per raccontarci questo studio. Va benissimo. La genesi dell'idea penso sia dovuta alla mia infanzia a Napoli. Il mio primo ricordo da bambino è il terremoto del 1980 dell'Irpinia, che ha causato danni, mettiamola così. Fortuna volle che dove vivevo io i danni furono molto limitati, insomma, sia in termini economici che in termini di vite umane. Ed è questo il tema principale della nostra ricerca empirica. Quello che ci domandiamo, che cerchiamo di stabilire, è se l'intensità delle tue esperienze da bambino con questi disastri naturali abbia poi un effetto sulla tua propensione ad assumere rischi quando divieni adulto. Il contesto nel quale svolgiamo la nostra ricerca è quello del rischio finanziario, quindi la domanda in particolare che ci poniamo è se gli amministratori delegati di società pubbliche siano più o meno propensi ad assumere rischi finanziari con le loro aziende a seconda delle loro esperienze con i disastri naturali quando erano in età adolescenziale. Ma come avete fatto? Avete fatto delle interviste? Incrociato dei dati? Quello che abbiamo fatto è abbiamo collezionato le date di nascita e il luogo di nascita, città di nascita di tutti gli amministratori delegati di società pubbliche negli Stati Uniti dal 1992 al 2012. Quindi abbiamo collezionato queste date di nascita e luoghi di nascita, e poi lì c'è stato veramente un lavoro mastodontico. Abbiamo collezionato tutti gli eventi, tutti i disastri naturali occorsi negli Stati Uniti dal 1900 al 2010. Ci sono voluti 9 mesi per completare questa parte del lavoro. Poi in effetti, una volta collezionati i dati, l'analisi è relativamente semplice. Viene fuori, mastodontica. Certo. Senta Bernile, siccome lei ha partecipato all'Ig Nobel e quindi siamo in un clima serio ma anche satirico e divertente. Certo. Lei conoscerà perfettamente, c'è un bellissimo testo che si trova anche in rete dove ci sono tutte le possibili correlazioni e si dimostra che, ne so, che cinesi con carie dentali che prendono un volo China Air e vanno a Expo presentano un'alta percentuale di coliche renali, no? Con i dati si può fare tutto. Allora, per esempio, da questa cosa qui noi saremmo messi male in Europa, tranne l'Italia, perché voglio dire, di tsunami, ci sono i terremoti in centro Italia. Nel resto dell'Europa noi avremmo dei manager un po' scarsini. Un po' scarsi, sì. Com'è che conservatori. No, allora, non è eccessivo. In effetti No, in effetti quello che noi dimostriamo, che noi pensiamo sia la parte più interessante dello studio, è che l'effetto è non monotonico, mi spiego, a forma di U inversa. Se tu hai un'esperienza potenzialmente traumatica che non ha conseguenze, tipo quella che descrivo io della mia infanzia, da adulto sei più propenso ad assumere rischi. Se tu sperimenti lo stesso evento, però con danni, vedi le conseguenze, sì, vedi con magari perdite di persone o di abitazione, esattamente, esattamente. Vedi succede? Le conseguenze catastrofiche che questo possa avere, ti comporti in maniera diametralmente opposta, quindi ti comporti in maniera più conservativa, diventi cauto, perché hai avuto paura forte, con perché danni. Perché sei conscio dei danni che il rischio possa avere, quindi se proprio la dovessi mettere, se dovessi dargli una label a quello che abbiamo trovato, è come se quando sperimenti un evento potenzialmente traumatico senza conseguenze sviluppi un certo senso di invincibilità. Noi conduciamo anche un esperimento con 60 amministratori delegati che vengono rimpiazzati in maniera inaspettata, ok? E in questi 60 episodi il nuovo amministratore delegato che viene che prende la posizione di amministratore delegato ha un'esperienza da bambino con i disastri che è opposta a quella del suo predecessore. Ma pensa tu. In questi 60 casi c'è un cambio immediato nelle politiche aziendali entro 2 anni dal momento in cui il nuovo amministratore delegato prende la posizione. Quindi, insomma, questa è evidenza empirica che è abbastanza convincente in termini della a sostenere nostre, insomma la vostra tesi, certo. Sì, a sostenere la tesi. Dicevo, per quanto riguarda l'Europa, i tipi di disastri sui quali noi ci focalizziamo vanno dai terremoti agli incendi, uragani. Ah beh, ci potrebbe essere dentro anche un incendio, per esempio. C'è di tutto. Nevicate che pesanti che causino incendi, allora abbiamo delle carte che abbiamo una conseguenza anche in Europa, sì, abbiamo delle carte da giocare anche noi, vabbè. Senta, solo per in conclusione, voi vi occupate ovviamente di finanza, ma vi siete dati anche una spiegazione di quello che può essere appunto questa correlazione, se c'è? Quanto riguarda il meccanismo ci dobbiamo avventurare in campi che non sono nostri. Comunque la psicologia e la psichiatria suggeriscono meccanismi biologici che possono essere in funzione quando noi sperimentiamo eventi traumatici. L'epigenetica suggerisce che qualsiasi esperienza di vita che sia di forte impatto addirittura cambia i meccanismi nel cervello. E addirittura l'epigenetica suggerisce che questi cambiamenti si trasmettano da madre in figlio. Quindi l'ipotesi per cui esperienze che uno si porta dietro da bambini poi possano condizionare anche il comportamento da adulti non è strampalata come può Non è nuovo, certo. No. La psicologia lì dice addirittura che singole cose molto forti, addirittura di 3 minuti, possono incidere per tutta la vita. Per tutta la vita, assolutamente. Poi, insomma, le conclusioni ce le ha ben spiegate. E ha vinto l'Ig Nobel. Va bene, allora ancora davvero complimenti. Grazie per aver accettato il nostro invito e davvero buon lavoro e buona ricerca, Bernile. Grazie mille per l'opportunità. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Parliamo, Federico, di un altro premio, un po' diverso dagli Ig Nobel, che è stato attribuito, insomma, nei giorni scorsi a Expo, allo spazio Emilia-Romagna, dal quale noi trasmettevamo. Stiamo trasmettendo da un po' di tempo, sì. Ecco, e dunque ha vinto il premio internazionale per la sostenibilità agroalimentare, attribuito dalla città di Bologna, e quindi facciamo i complimenti e benvenuto Salvatore Ceccarelli qui a Mebius. Buonasera. Buonasera Ceccarelli, allora complimenti, lei è genetista, appunto si occupa di miglioramento genetico e ha vinto questo premio per la sua attività, che non è qui in Italia, ma è in giro per il mondo, soprattutto nelle aree un po' disagiate. Adesso infatti le chiederemo anche di raccontarci qualche storia. Lei ha un'attività che permette un'agricoltura molto sostenibile per questi paesi, sia dal punto di vista ovviamente ambientale, ma anche economico. Le chiederemo insomma di raccontarci un po' qual è il caposaldo della sua ricerca, che è appunto genetica. Beh, intanto vi racconto che io ho cambiato radicalmente il modo di fare il miglioramento genetico intorno al 95. Da ex professore universitario mi sono trasferito in Siria agli inizi degli anni 80 per svolgere attività di ricerca ricerca presso un istituto internazionale che si trovava ad Aleppo, e poi nel 95 mi sono accorto che quel modo di fare miglioramento genetico, un processo molto centralizzato, senza consultare chi di quel lavoro poi eventualmente doveva beneficiare. Centralizzato, lei intende che... Nella stazione sperimentale. E quindi nel 95 io ho cominciato ad esplorare l'idea, consultandomi con gli agricoltori, di trasferire, e questo è stato il primo atto del cambiamento, trasferire gli esperimenti, esattamente gli stessi identici esperimenti, dall'interno della stazione sperimentale al campo dell'agricoltore. Coinvolgere l'agricoltore in tutte le scelte, dal tipo di materiale, da come si seminava, dalle varietà, e soprattutto coinvolgerlo nella selezione. Voi immaginate che questo trasferimento significava che mentre io lavoravo in una stazione sperimentale, questo lavoro io l'ho trasferito in, a un certo punto, 24 villaggi diversi in Siria. In ciascuno di questi villaggi gli agricoltori facevano ciò che io fino a quel momento avevo fatto in una stazione sperimentale, selezionando ciò che andava bene in quel villaggio. Il primo risultato è stato che intanto selezionavano cose che andavano molto bene in quel particolare posto, e poiché in quel particolare posto le cose che andavano, le varietà che andavano bene, i semi che andavano bene, non erano gli stessi che andavano bene in un villaggio a 50 km di distanza, si creava tantissima diversità. Che è un valore di fondo, certo. Questo era il primo risultato. Il secondo risultato è che gli agricoltori si riappropriavano del controllo del seme, cioè non dovevano essere costretti ad andare al mercato e comprarlo, e lì il vantaggio non era tanto economico per il risparmio che in questo modo conseguivano, quanto per il fatto che a questo punto disponevano di seme lo stessi avevano selezionato, altamente produttivo, tanto quanto, diciamo, quello che acquistavano, quindi non avevano più bisogno di acquistarlo. Parliamo di vantaggi produttivi del 40-50% rispetto a quello che acquistavano, per cui non solo risparmiavano in seme, ma producevano esattamente ciò che a loro serviva. L'altro vantaggio è che questo, sperimentare nel loro campo, era un processo continuo, per cui oggi selezionavano una varietà, tra 2 o 3 anni ne potevano selezionare un'altra ancora migliore, per cui c'era questo flusso continuo di nuove varietà che arrivava nei campi degli agricoltori. Allora c'era un contributo alla biodiversità nello spazio, perché in ciascun momento c'erano varietà diverse nei diversi villaggi, ma c'era anche un contributo alla biodiversità nel tempo, perché queste varietà venivano sostituite molto rapidamente. E allora voi potete immaginare quanto difficile diventava per un insetto o una malattia affrontare tutta questa diversità, perché ciò che poteva essere suscettibile quest'anno, poi l'anno successivo c'era una nuova varietà che era resistente. Il risultato è che, applicando questo stesso concetto nei paesi in cui c'è un alto uso di chimica, certo, in agricoltura, si può evitare l'uso della chimica. Chiaro. Per cui io ho visto, per esempio, in Iran, dove c'è un grosso uso di chimica, da quando abbiamo utilizzato questo metodo, molti agricoltori sono diventati, ma senza nemmeno dirlo, agricoltori bio, perché non c'era nulla contro cui trattare. Certo. Mentre invece le sementi prodotte in un solo centro danno un prodotto medio che è di fatto più fragile, vulnerabile. E più vulnerabile. Ma non solo, ma a livello globale il mercato mondiale del seme, che è un mercato che vale miliardi di dollari, è nelle mani di 6 o 7 grandi corporazioni. Alcune di queste grandi corporazioni controllano anche il mercato mondiale dei pesticidi, un altro mercato che vale miliardi di dollari. E allora ci si chiede: ma se io vendo semi e pesticidi, per quale motivo dovrei vendere semi che danno piante che non hanno bisogno di pesticidi? È una domanda più che ragionevole. Bene, allora, complimenti Ceccarelli. Dove sta per partire adesso, appena ripartirà da Expo? Adesso io torno a casa in India, dove vivo, e fra poco più di una settimana andrò in Messico per 2 settimane. Bene, allora buon viaggio, buoni viaggi Ceccarelli, e ancora congratulazioni per il premio. Grazie a voi. Che cos'è il tessile tecnico in generale, e poi in particolare come lo produciamo in Italia? Una conversazione con Andrea Parodi, presidente del Tex Club Tech, che è l'associazione delle aziende che operano nel tessile tecnico. Partiamo con una definizione allora di tessile tecnico. Diamo una definizione di tessile tecnico. A differenza del tessile tradizionale, il concetto base del tessile tecnico è dove va a essere apprezzata una performance e non quindi un aspetto estetico o di touch del prodotto, del manufatto. Poi è chiaro che ormai la tendenza generalizzata del fattore moda fa sì che anche un capo dei Vigili del Fuoco in qualche modo non debba stonare. Sì, deve essere gradevole. Insomma, ecco, gradevole. Certo. Se poi vogliamo allargare lo spettro e fare un minimo di leggenda di quello che rappresenta il tessile tecnico, allora cominciamo a dire che ci sono un primo bivio, è quello che comunque protegge la persona. Scendendo nei dettagli, poi bisogna vedere da che cosa uno deve essere protetto. Deve essere protetto dal fuoco, deve essere protetto dagli acidi, deve essere protetto dall'environment, dall'ambiente in cui opera, sì. Deve essere protetto dalle cariche elettrostatiche, magari perché lavora in un centro di elaborazione dati. E restando però in quest'ambito di protezione della persona, lei ha citato i Vigili del Fuoco, certo ci torna perfettamente che lì ci sia bisogno di tessile tecnico, ma poi dove lo ritroviamo? Magari in aree che non immaginiamo. Beh, allora, anche qui c'è una piramide a vetta stretta e a base molto allargata, dove pur nell'ambito della protezione del fuoco, prendiamo l'esempio di Vigili del Fuoco che mi sembra anche abbastanza facile, riconoscibile. Nel momento in cui lei va a spegnere un incendio è evidente la protezione deve essere massima. Tanto per fare una divisione che credo sia interessante, le metodologie con cui un Vigile del Fuoco spegne un incendio non sono uguali in tutto il mondo. Per cui il rischio a cui è sottoposto il vigile stesso non è lo stesso rischio a seconda che sia un vigile del fuoco italiano o un vigile del fuoco americano. Il vigile del fuoco americano molto spesso, lo si vede anche nei telefilm, quindi qui viaggiano per esempio con la bombola d'ossigeno e con la maschera quasi sempre. Perché? Perché tendenzialmente vanno dentro l'edificio e cercano immediatamente lo spegnimento all'interno dell'edificio. Quindi hanno bisogno della maschera e della bombola evidentemente perché devono respirare. Ma il capo che indossa deve avere una capacità di barriera evidentemente più elevata che se lei è in cima a una scala mobile e spegne l'incendio dall'esterno dell'edificio stesso. Quindi noi qui abbiamo una strategia diversa. Sì, o in alcuni casi la strategia è diversa, adesso perché sennò sembra riduttivo, sembra che i Vigili del Fuoco italiani siano lavativi e quelli americani sono coraggiosi, non è questa l'immagine che voglio dare. Ci sono delle procedure, delle metodologie, delle metodologie diverse, e questo tanto per collegare valori a manufatti, le do un prezzo della materia prima, della fibra. La fibra che serve per spegnere un incendio dall'esterno può valere 30 euro al chilogrammo, la fibra per andare dentro può valere 150 euro. Stiamo parlando di rapporti 4-5 volte tanto. E qui siamo ai vertici di questa piramide. Poi scendendo pensiamo alle piattaforme petrolifere. Il rischio evidentemente è molto elevato, ma è minore rispetto al rischio che corre un vigile del fuoco. Certo, evidente, perché certo. I casi in cui una piattaforma prende fuoco, per fortuna, uno si butta a mare, lei dice. Sì, magari non è banale. Sì, però, evidente che si parte dal principio che la piattaforma non deve bruciare. Di solito, purtroppo, quando vengono chiamati i vigili del fuoco, un incendio c'è già. Certo. Poi scendiamo ancora, pensiamo agli addetti ai distributori di benzina. Lì il rischio è evidentemente ancora inferiore perché ci sono vie di fuga maggiori che non sono una piattaforma petrolifera. Però quelli gli addetti alle pompe di benzina hanno su noi, ecco, questo per esempio non si esatto, pensa. Esatto, poi quello dipende dalle compagnie petrolifere, dipende di nuovo dalle normative. E infatti qui entriamo, l'esempio che vi ho fatto sulla stazione di benzina, sia il classico passaggio tra abbigliamento specifico e workwear in generale. Abbigliamento per lavoro. Abbigliamento da lavoro, esatto. Sì. In tutto ciò che è chirurgia e ospedale noi dobbiamo pensare che c'è tessuto tecnico, queste perfetto. Coperture dei chirurghi, delle infermiere. Esatto, e qui e lì si è sviluppata una tecnologia particolare in quanto si tende ad avere un abbigliamento monouso. Per cui il problema di lavare, che qui non si tratta di lavare, qui si tratta di sterilizzare, evidentemente comporta costi e incertezze del risultato con percentuali benché basse, ma di rischio che permanga una contaminazione evidentemente elevata. Col monouso è evidente che si radicalmente evita il problema. Ma con oggetti che non sono però costosissimi, immagino, ecco, perché allora, sennò... Poi dopo bisogna ridurre il costo. Allora, qui sono state sviluppate delle tecnologie dove tecnicamente si parla di tessuto tessuto o non tessuto? Si chiama tessuto perché ha l'aspetto estetico di un tessuto. Poi si chiama non tessuto perché in realtà non subisce la tipica lavorazione che da, credo, 2000 anni si conosce nel mondo del telaio, in quanto non c'è in più un'inserzione di una trama su delle catene di ordito, ma semplicemente si salta sia la filatura che la tessitura e direttamente queste fibre sintetiche sono orientate e parallelizzate e poi bloccate in quello che potremmo definire una specie di micro materassino con sistemi vari ad aghi, ad acqua, ad aria, poi ci sono tante tecnologie. Si ottiene quello che nell'uso comune è molto simile a un fazzolettino di carta, in questo caso non è un fazzolettino di carta, non è carta, è un tessuto, certo, è un tessuto sofisticato, assomiglia di più allo stampare carta, assomiglia esatto, questo può essere più assimilabile. Questo consente di avere comunque una indossabilità e una vestibilità adatta a quello che si va a fare, una protezione comunque perché per l'operatore sanitario che evidentemente non ha rischi di contaminazione al punto che questi vengono indossati su una semplicissima maglietta o addirittura pelle. Senta Parodi, però quando usciamo dall'abbigliamento lì il tecnico sta dilagando in un'infinità di settori. L'automobile è piena di tessile ed è tutto tessile tecnico perché di nuovo, salvo rarissimi casi dove l'estetica possa avere un aspetto pregnante, ma in questo caso ci si riferisce più a polimeri, a plastiche, non alla parte tessile. Poi ci sono tutti gli aspetti fonoassorbenti, gli aspetti di riduzione dei pesi. La riduzione dei pesi vuol dire minor consumo. Cioè per gli aerei, per esempio, immagino. Ha ragione lei. Io ho citato un pezzo, qui bisognerebbe parlare dei trasporti. Dei trasporti in genere. Perché poi si parla di navi da crociera, poi si parla di aeroplani, poi si parla di treni e poi si parla di automobili. Ma anche lì, oltre al problema dei pesi, c'è anche lì il problema della sicurezza. Cioè è salita moltissimo rispetto a come era una volta, con il tecnico. La mia età, non più giovanissima, mi permette di ricordare che al cinema Statuto di Torino sono morte 80 persone in un cinema, da quel giorno, stiamo parlando ormai di 30 anni fa, è diventata cogente il fatto che tutti i locali definiti ad alta affluenza di pubblico, compresa la seggiolina della radio da dove stiamo parlando, l'alta affluenza di pubblico presuppone che i manufatti tessili debbano essere fatti da materiali che devono superare determinati test. Senta, come siamo messi in Italia per questo settore qui, che mi pare sia diventato assolutamente strategico a livello mondiale, come siamo messi? Citando velocemente dei numeri, diciamo che il tessile tradizionale italiano pesa nell'ambito del tessile tradizionale europeo per poco più del 30%. Sì. Quando voglio confrontare la stessa percentuale al tessile tecnico, siamo solo al 12%. E questo non la rende molto contenta. No, perché se diciamo il benchmark deve essere quello del tessile tradizionale, e siccome il tessile tecnico è comunque una branchia del tessile tradizionale, se siamo solo al 12 laddove abbiamo un posizionamento al 30-31, vuol dire che c'è ancora molta strada da fare. Andrea Parodi, grazie e buon lavoro. Grazie a lei. Vuoi avere una bella tuta tecnica da pompiere per spegnere? Sempre meglio averla. In caso, sì. Alla prossima settimana. Sì, vi ricordiamo che sul nostro blog ci sono tutti gli approfondimenti di tutte le puntate. Esatto. Su radio24.it. Ciao a tutti. A presto.